Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Coira la conoscevo per esserci stato piuttosto spesso con i miei genitori. Ogni volta infatti che andavamo a St. Moritz pernottavamo a Coira, sempre nello stesso albergo che puzzava di tè alla menta, dove mio padre era conosciuto e gli veniva praticato il 20% di sconto perché a quell'albergo era stato fedele per più di 40 anni. Si trattava di un cosiddetto buon albergo nel centro della città. Non ricordo più bene il suo nome. Può darsi che mi sbagli, ma credo che si chiamasse Al Sole, eppure si trovava nella zona più buia della città. Nelle osterie di Coira servivano un pessimo vino e portavano in tavola delle salsicce quanto mai insipide. Mio padre cenava con noi e sempre in albergo, ordinava un cosiddetto boccone e chiamava Coira una tappa piacevole, denominazione per me incomprensibile dato che Coira era sempre stata per me particolarmente spiacevole. Proprio come i salisburghesi, gli abitanti di Coira li trovavo ancor più odiosi nella loro ottusità da gente di alta montagna. L'avevo sempre sentito come un castigo dover partire per St. Moritz con entrambi i genitori o qualche volta soltanto con mio padre, dover fare tappa a Coira, scendere in quello squallido albergo le cui finestre si affacciavano su un vicolo umido e stretto che saliva fino all'altezza del secondo piano. A Coira non ero mai riuscito a dormire, pensai. Stavo sveglio per ore nel mio letto in preda a una grande disperazione. Coira è in effetti il posto più tetro che io abbia mai visto in vita mia. Neppure Salisburgo è tetra e ammorbante come Coira, e gli abitanti di Coira lo sono in proporzione. A Coira una persona, anche se si ferma una notte soltanto, può essere rovinata per tutta la vita. Ma è tuttora impossibile, pensai, raggiungere St. Moritz da Vienna in un solo giorno col treno. Io avevo pernottato fuori Coira perché, come ho detto, il mio ricordo di Coira era fin dall'infanzia così deprimente. Mi feci semplicemente portare con la macchina oltre Coira e scesi tra Coira e Zizers, dove avevo scoperto l'insegna di un albergo. Aquila azzurra lessi la mattina seguente, cioè il giorno del funerale, quando lasciai l'albergo. Ovviamente non avevo dormito. Per il suicidio di Wertheimer l'elemento davvero decisivo non era stato Glenn, pensai, ma piuttosto la partenza della sorella, il suo matrimonio con lo svizzero. Tra l'altro, prima di partire per Coira, avevo sentito molte volte nella mia casa di Vienna, rimettendo sempre lo stesso disco, le variazioni Goldberg suonate da Glenn. Ascoltandole, mi ero alzato molte volte dalla mia poltrona per camminare su e giù nello studio e avevo immaginato che Glenn suonasse veramente le variazioni Goldberg nella mia casa. E mentre camminavo avanti e indietro, cercavo di scoprire quale fosse la differenza tra l'interpretazione di Glenn in quei dischi e l'interpretazione da lui data 28 anni addietro nel Mozarteum, mentre Horowitz e noi, ossia Wertheimer ed io, lo stavamo ascoltando. La differenza non potei stabilirla. Già 28 anni prima Glenn aveva suonato le variazioni Goldberg come nei dischi che stavo ascoltando e che, tra l'altro, mi ha mandato lui stesso per il mio 50° compleanno affidandoli alla mia amica di New York perché li portasse a Vienna. E intanto che lo sentivo suonare le variazioni Goldberg, pensavo che Glenn ha creduto di essersi reso immortale con questa interpretazione, cosa che forse gli è davvero riuscita, pensai, perché io non mi figuro che potrà mai esistere un altro pianista che suoni le variazioni Goldberg come lui, ossia con la genialità di Glenn. Mentre io, per amore del mio scritto su Glenn, ascoltavo le sue variazioni Goldberg, constatai ancor più precisamente in che stato pietoso era ridotta la mia casa, nella quale da 3 anni non avevo più messo piede, E in questo periodo, pensai, nessun altro c'è mai entrato. Ero via da 3 anni. Avevo fatto una vita ritiratissima nella Calle del Prado. Mai negli ultimi 3 anni avevo immaginato di ritornare a Vienna. Non avevo nemmeno lontanamente pensato di far ritorno a Vienna, città da me odiata più di ogni altra, né di far ritorno in Austria, paese da me odiato più di ogni altro. Pensai che è stata la mia salvezza andarmene da Vienna, come si suol dire, una volta per tutte, andarmene da Vienna per trasferirmi a Madrid. Madrid che è diventata il centro ideale della mia esistenza, non solo col passare del tempo, ma fin dal primo istante. A Vienna, come diceva sempre Wertheimer, sarei stato divorato a poco, soffocato dai viennesi e annientato dagli austriaci in genere. Tutto si presta in me a essere soffocato a Vienna e annientato in Austria, pensai. E anche di sé Wertheimer pensava che i viennesi non potessero fare a meno di soffocarlo e gli austriaci di annientarlo. Ma Wertheimer non era il tipo di partire all'improvviso per Madrid o per Lisbona o per Roma. Questo, a differenza di me, non riusciva a farlo. Sicché la sua unica possibilità è sempre stata quella di ripiegare su Traich. Ma le cose a Traich si sono sempre messe ancora peggio per lui. Solo, come si dice, con le scienze dello spirito, a Traich è colato a picco per forza. In compagnia di sua sorella, sì, pensai, se la sarebbe cavata, ma solo a Traich, con l'unica compagnia delle scienze dello spirito, non poteva cavarsela di sicuro. La città di Coira, Chur, che egli non conosceva affatto, alla fine l'ha odiata. Anzi, già solo il nome di quella città, la parola Chur, l'ha odiata a tal punto che ha sentito il bisogno di andarci per togliersi la vita, pensai. La parola Chur, non meno della parola Zitzers, lo avevano alla fine costretto a partire per la Svizzera e a impiccarsi a un albero, naturalmente un albero non lontano dalla casa di sua sorella. Concertato era pure una tipica parola di Wertheimer. Ed è un concetto che in realtà ben si adatta a questo suicidio, pensai. Il suo suicidio è stato concertato, pensai. Tutte le predisposizioni sono in me micidiale, mi ha detto una volta, pensai. Tutto è stato predisposto in me in maniera micidiale da coloro che mi hanno generato. Wertheimer ha sempre letto dei libri in cui si parla di suicidi, di malattie e di morti, pensai, mentre ero in piedi nella sala della locanda. Libri nei quali è descritta la miseria umana, la mancanza di ogni via di scampo, l'insensatezza e l'inanità di ogni sforzo. Libri nei quali tutto è sempre e continuamente devastante e micidiale. Per questo non solo egli amava soprattutto Dostoevskij, i suoi seguaci e la letteratura russa in genere, perché di tutte le letterature è la più micidiale, ma anche i deprimenti filosofi francesi. Con grandissimo piacere e accanimento leggeva scritti di medicina e le strade che si sceglieva lo portavano di continuo negli ospedali e nei cronicari, negli ospizi e nelle cappelle mortuarie. E questa è un'abitudine che ha conservato fino alla fine. Benché temesse gli ospedali e i cronicari, non meno degli ospizi e delle cappelle mortuarie, Wertheimer continuò a visitare di continuo gli ospedali e i cronicari, gli ospizi e le cappelle mortuarie. E quando non entrava negli ospedali perché farlo non gli era stato possibile, allora leggeva articoli o libri su malati e malattie e libri o articoli sulle persone colpite da infermità croniche quando non aveva occasione di entrare nei cronicari, oppure leggeva articoli e libri sugli anziani quando non poteva entrare negli ospizi, o articoli e libri sui morti quando non aveva occasione di entrare nelle cappelle mortuarie. Noi vogliamo naturalmente stabilire un rapporto pratico, perché quello teorico non ci basta, così disse una volta, con gli oggetti che ci affascinano, dunque innanzitutto coi malati e gli infermi e gli anziani e i morti, eppure per lunghi periodi siamo costretti ad accontentarci del rapporto teorico con questi oggetti, così come in effetti anche per ciò che riguarda la musica, per un lunghissimo periodo dobbiamo limitarci a un rapporto teorico, così lui pensai. Ciò che lo affascinava erano gli esseri umani nella loro infelicità. Non lo attraevano le persone in sé, ma la loro infelicità. E l'infelicità la coglieva dovunque ci fossero delle persone, pensai. Era avido di persone perché era avido di infelicità. L'uomo è l'infelicità, diceva di continuo, pensai. Solo gli imbecilli affermano il contrario. Essere partoriti è un'infelicità, diceva. E fin tanto che viviamo ci portiamo appresso questa infelicità che soltanto la morte può spezzare. Ma ciò non significa che noi siamo solo infelici. La nostra infelicità è la premessa per poter essere anche felici. Solo passando attraverso l'infelicità possiamo essere felici. Così diceva, pensai. I miei genitori non mi hanno mostrato nient'altro se non l'infelicità, diceva. La verità è questa, pensai. Eppure molto spesso sono stati felici. E lui dunque non poteva dire che i suoi genitori erano stati esseri umani infelici, e neppure poteva dire che erano stati felici, come pure di se stesso non poteva dire né di essere felice né di essere infelice, perché tutti gli esseri umani sono infelici e felici nello stesso tempo, diceva, e a volta è più grande in essi l'infelicità della felicità o viceversa. Ma una cosa è sicura, così diceva, pensai, che negli esseri umani c'è più infelicità che felicità. Era uno che scriveva aforismi. Esistono di lui innumerevoli aforismi, pensai, ma c'è da supporre che li abbia distrutti. Io scrivo aforismi, diceva di continuo, pensai. È un'arte deteriore tipica di quelli che intellettualmente hanno il fiato corto, della quale hanno vissuto e vivono un certo numero di persone, soprattutto in Francia. Si tratta dei cosiddetti filosofi di mezza tacca che scrivono per i comodini da notte delle infermiere. Potrei anche chiamarli filosofi da almanacco, gente che scrive cose che vanno bene per tutti e le cui massime con l'andar del tempo troveremo affisse alle pareti di ogni sala d'aspetto dei nostri medici. I cosiddetti aforismi negativi sono altrettanto repellenti dei cosiddetti aforismi positivi, eppure non sono riuscito a togliermi questa abitudine di scrivere aforismi. In verità, temo proprio di averne ormai scritti a milioni, così diceva, pensai, e faccio bene a procedere alla loro distruzione, perché non intendo vedere un giorno tappezzate coi miei aforismi, come con Goethe, Lichtenberg e compagni, le pareti delle camere d'ospedale o delle sagrestie, così diceva, pensai. Siccome non sono nato per essere filosofo, mi sono trasformato, devo dire non del tutto inconsapevolmente, in un autore di aforismi, in uno di quei repellenti compagni di strada dei filosofi come ce n'è a migliaia, così diceva, pensai. Si tratta di imbrogliare l'umanità intera con piccolissime trovate che mirano a effetti grandiosi, così diceva, pensai. In sostanza non sono altro che un pericolo pubblico, uno di quegli autori di aforismi che nella loro sconfinata impudenza e inguaribile sfacciataggine si confondono tra i filosofi come i cervi volanti tra i cervi, così diceva, pensai. Se smettiamo di bere, moriamo di sete. Se smettiamo di mangiare, moriamo di fame, diceva. Da sentenze di tal fatta hanno origine tutti gli aforismi. Può averli scritti perfino Novalis. Anche Novalis ha detto un mucchio di sciocchezze, così lui, pensai. Nel deserto anelliamo all'acqua. Suonano all'incirca le massime di Pascal, così lui, pensai. A essere esatti, dei più grandi progetti filosofici, quello che rimane a noi non è altro che un misero retrogusto aforistico, così diceva, pensai. Quale che sia la filosofia, e chiunque sia il filosofo di cui ci stiamo occupando, Tutto si riduce in briciole quando li affrontiamo con tutte le facoltà di cui siamo dotati, ossia con tutti i nostri strumenti intellettuali, così diceva, pensai. Io passo il mio tempo a parlare delle scienze dello spirito e non so neppure che cosa siano queste scienze dello spirito. Non ne ho la minima idea, così diceva, pensai. Parlo della filosofia e non ho la minima idea della filosofia. Parlo dell'esistenza e non ho la minima idea dell'esistenza, diceva. Il nostro punto di partenza è sempre lo stesso. Non sappiamo mai niente di niente. Non c'è niente di cui abbiamo un'idea sia pur minima, così diceva, pensai. Non appena esaminiamo un argomento qualsiasi, rischiamo di soffocare nell'enorme quantità di materiale che in ogni campo è a nostra disposizione. La verità è questa, così diceva, pensai. E pur sapendo tutto ciò, riesaminiamo continuamente da capo i nostri cosiddetti problemi intellettuali e ci lasciamo sedurre da un'idea impossibile: creare un prodotto intellettuale. Questa sì che è follia, così lui pensai. Fondamentalmente siamo capaci di qualsiasi cosa e altrettanto fondamentalmente siamo destinati a fallire in ogni cosa, così diceva, pensai. A un'unica frase ben riuscita sono stati ridotti i nostri grandi filosofi e i nostri massimi poeti, così diceva, pensai. La verità è questa. Spesso ricordiamo solamente una cosiddetta tonalità filosofica, non ricordiamo nient'altro, così diceva, pensai. Noi studiamo un'opera colossale, l'opera di Kant, per esempio, e col passare del tempo essa si riduce alle piccole pensate di un filosofo della Prussia orientale chiamato Kant, e quindi tra il lusco e il brusco della sua opera non rimane nient'altro che un mondo estremamente vago che suscita in noi, come qualsiasi altro, un senso di desolante inermità, così diceva, pensai. Di ciò che voleva essere un mondo colossale è rimasto un ridicolo dettaglio, così diceva, pensai, come capita con tutte le cose. La cosiddetta grandezza è diventata alla fine a tal punto ridicola e meschina che non suscita in noi nient'altro che un senso di pena. A voler ben guardare, anche Shakespeare si riduce per noi a un essere ridicolo, così diceva, pensai. Da tempo gli dei ci appaiono soltanto come figure barbute dipinte sulle brocche di birra, così diceva, pensai. Ad ammirarli sono rimasti gli stupidi, così diceva, pensai. Il cosiddetto uomo d'ingegno si consuma in un'opera che egli reputa epocale, eppure alla fine si è solo reso ridicolo. Può chiamarsi Schopenhauer o Nietzsche, non ha alcuna importanza. Può essere stato Kleist o Voltaire. Ciò che abbiamo di fronte a noi è solo un pover'uomo, un essere pietoso che ha abusato della propria mente e operato in sé una reductio ad absurdum. Un povero essere travolto e superato dalla storia. I grandi pensatori li abbiamo ingabbiati nelle nostre librerie, da dove essi, condannati al ridicolo per sempre, ci guardano con gli occhi sbarrati, così diceva, pensai. Notte e giorno io sento il lamento dei grandi pensatori che sono stati rinchiusi nelle nostre librerie, quei ridicoli, grandi spiriti ormai ridotti come mummie sotto vetro, così diceva, pensai. È tutta gente che ha violato la natura, diceva, ma il delitto capitale lo hanno commesso contro lo spirito. È per questo che vengono puniti e da noi ficcati per sempre nelle nostre librerie, perché in queste librerie soffocano, la verità è questa. Le nostre biblioteche sono in un certo senso istituti di pena dove noi abbiamo rinchiuso i nostri grandi spiriti. Naturalmente Kant in una cella singola, e così Nietzsche, Schopenhauer, Pascal, Voltaire, Montaigne, i grandissimi nelle celle singole e gli altri nei cameroni. Ma tutti per sempre e in eterno, mio caro, per tutti i tempi e all'infinito, la verità è questa. E guai se uno di questi uomini che hanno commesso un delitto capitale si dà alla fuga e scappa. Subito viene, per così dire, impacchettato e reso ridicolo, la verità è questa. L'umanità è in grado di difendersi da questi cosiddetti grandi spiriti, così diceva, pensai. Dovunque si presenti lo spirito, subito viene impacchettato e ingabbiato e ovviamente subito bollato come spirito malefico, così diceva, pensai, e intanto osservavo il soffitto della sala. Comunque è tutto assurdo quello che diciamo, così diceva, pensai. Qualsiasi cosa veniamo dicendo è assurda e l'intera nostra vita è di un'assurdità davvero unica. Questo l'ho capito molto presto. Non appena ho incominciato a pensare, ho capito subito che tutto quello che noi diciamo è assurdo, ma ugualmente assurdo è tutto quello che ci viene detto dagli altri, come del resto ogni cosa che viene detta in generale. Finora a questo mondo sono state dette soltanto cose assurde. E, così diceva, in effetti, e come è ovvio, sono anche state scritte solo cose assurde. Tutte le opere scritte in nostro possesso sono assurde perché non potevano essere altro che assurde, come la storia dimostra. Così diceva, pensai. Alla fine ho trovato riparo nell'idea di diventare un autore di aforismi, diceva. E in effetti, una volta a della gente che mi chiese quale fosse la mia professione, così lui, io risposi che ero un autore di aforismi, ma quelli come al solito non compresero quello che io intendevo dire. Gli altri non mi comprendono mai quando dico qualcosa, perché quando dico qualcosa ciò non significa affatto che io abbia detto ciò che ho detto, così diceva, pensai. Io dico una cosa, così diceva, pensai, e dico anche una cosa completamente diversa. Perciò la mia vita l'ho tutta passata in mezzo ai malintesi, in mezzo ai malintesi e nient'altro, così diceva, pensai. A voler essere precisi, noi veniamo in effetti generati in mezzo ai malintesi e fin tanto che esistiamo, da questi malintesi non riusciamo a tirarci fuori. Possiamo sforzarci e far di tutto per tirarcene fuori, ma non serve a nulla. Però questa osservazione è alla portata di tutti, così diceva, pensai, dato che ogni persona dice continuamente delle cose che vengono fraintese, sicché in verità questo è l'unico punto su cui tutti concordano, così diceva, pensai. Un malinteso ci fa venire al mondo. In questo mondo di malintesi che ci tocca sopportare come un mondo costituito da innumerevoli malintesi e che poi abbandoniamo con un unico grande malinteso, giacché la morte è il malinteso più grande di tutti. Così lui, pensai. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.